Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, bentornati, Voice Anatomy, Pino Insegno, Radio 24. Io sono qui, cioè sono qui, non sono qui, ma è come se non fossi qui, cioè non sono qui perché è Pasqua. E anche noi, insomma, abbiamo questi bei pranzi familiari che finiscono a Pasquetta. Credo che anche voi. Però vi faremo compagnia ugualmente con alcuni dei momenti più belli, divertenti, anche intensi della nostra trasmissione. Tornerà tutto come sempre da domenica prossima, ovviamente dal 23 aprile. Nel frattempo rigodiamoci qualcosa che ci siamo magari persi oppure abbiamo sorvolato in maniera superficiale. Comunque ci siamo, Voice Anatomy è qui con voi per farvi compagnia anche in questo giorno di festa. Auguri. Amici miei, vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual. Liberi finalmente, grazie Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Thank God Almighty, we are free at last. Oh my God, we're living in a cold, cool world. We need to better educate our young boys and girls. E questo era il momento dedicato al grandissimo personaggio nato proprio il 15 gennaio. Vicino a me non è nato il 15 gennaio, ma è sempre un grandissimo. 17. Tu sei nato il 17 gennaio. Sì, martedì. Ma io non voglio dire il tuo nome ancora. Voglio che tramite i nostri sms, voi siete affamati dei nostri siti, anche del nostro di Facebook, ovviamente ve lo ricordo, Voice Anatomy, il numero lo conoscete perfettamente, 349-238-6666. Chi ho vicino a me? Chi è questo grandissimo voce radiofonica, ma radiofonica vera, molto più vera di tutte queste persone che mi stanno circondando. Vabbè, sì, diciamo anche con una certa anzianità di servizio, no? Esatto. Mettiamola così. È un grandissimo, ovviamente, direttore di doppiaggio e anche doppiatore. A voi l'ardua sentenza, mentre io faccio gli auguri a un altro personaggio vivente, italiano, no? Un'attrice molto bella, molto brava, non posso dire di più perché è anche moglie di un nostro grandissimo amico e collega, per cui sai, è anche geloso, è alto, è grosso, lui al suo segnale si scatena nell'inferno, è un personaggio particolare, è fatto così, è rude, sì, un po' ruvido, allora. Però lei no, lei già dal nome, Giada Desideri, Giada pronto? Topino. Auguri, non ti dico chi è l'altra persona che ti però fa gli tanti auguri, tanti. Pronto, cari auguri. Scusatemi perché io mi sono collegata adesso, quindi chi c'è? Non l'ho detto perché lo lascio indovinare ai nostri radioascoltatori oggi. È un segreto. Mi però spero. è un collega importante. Ragazzi, comunque grazie Pino, veramente degli auguri, mi ha fatto veramente un immenso piacere. Vabbè, sei un angelo. 71 sempre. Anni e portati così bene, Giada mia. Sei giovanissima, poi hai legato il tuo... Ti manca un posto al sole? Nel senso, no che non vai più al mare da un po' di tempo, ma... Guarda, anche quello, manca pure quello. E tu ti metti a fare i figli con quel signore, dai. No, niente, basta, ormai, ho chiuso le tube. Senti, quell'essere orribile con una voce leggera è al tuo fianco? sta in no, giro. Purtroppo sta... no, guarda. No, che purtroppo. Ve l'avrei passato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dicevamo che sta bene dove sta. A parte che glielo devo dire che grazie a lui l'inverno è cominciato prima, che secondo me si è affacciato alla finestra e ha detto: al mio segnale scatenate l'inverno. No, e lì è l'hanno successo. Capito male, gli è venuta sporca. Esatto. Scusa, Pino, non lo conosci bene. No, perché lui passa davanti alla finestra e dice: al mio segnale scatenate l'estate. Ogni volta che si sveglia la mattina dice: non è possibile, oddio, guarda che brutto, guarda che freddo. Ah, sta così, Ward? No, è un incubo. È uomo di mare, uomo di profondità. No, gente di mare l'ha fatto lei, sempre Giada. Non confondiamo tutto, però è così. E che anche lui col sole c'ha a che fare ultimamente, quindi. Sì, è vero, pure lui col sole c'ha a che fare. Ah, vi siete dati il cambio, è vero. Sì, in qualche modo, una roba di famiglia. Fai vedo dei bambini nel futuro di Un posto al sole. Ancora, chissà, loro, ah, i figli, chissà, sì, generazione. Dai, io spero che Lupo possa fare il notaio e Luna la mantenuta. Ah sì, che già, progettini. Già glielo dici così. Va bene, fai una festicciola a casa, vedi i parenti, sì, amici. Niente, no, abbiamo perso. Queste vite veramente, cioè, un delirio. No, ormai dalla vita in giù fermatevi, dalla vita in su divertitevi, state attenti, basta, no? Va bene così quello che avete fatto. L'importante è che facciano veramente quello che vogliono e con tutta serenità, l'importante è che siano felici. Tanto si comprano i cinesi i figli nostri, è sicuro, io già non ho venduto uno adesso. Ah sì? Lo vediamo. C'è già una trattativa. Una trattativa. Si comprano la casa, la famiglia. Ormai sponsorizzo anche le famiglie queste. Va bene così. Giada, auguri tesoro. Auguri. Auguri. Grazie, un tesoro, bacio. Ti abbraccio forte e saluto anche il nostro ospite misterioso. Ospite misterioso. Grazie a te, auguri. Carissimi. Ciao. Ciao, ciao. Va bene, abbiamo fatto l'auguro. L'auguri a una persona che non c'è più, ma ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità. Abbiamo fatto un'altra, che è una persona un po' più umile, ovviamente, ma un'amica, collega, moglie di un nostro carissimo amico. Qualcuno ci è arrivato, ha detto: è inutile che lo nascondete, Teo Bellia. Aia, va bene, vabbè. Vabbè, ma c'è una voce talmente riconoscibile. È stato individuato. Ma sì, te. Insomma, sono un po' di annetti. Io qui c'ho una biografia che saluto e ringrazio i miei autori, Alessia Navarro e Mauro Meconi, Alessandro dall'altra parte del vetro come sempre puntuale, Rachele, nostra capo redattrice, oggi alcuni ospiti intorno alla trasmissione che ci vengono a trovare perché gli piace, non so chi, però vengono, insomma, vengono ad ascoltare e a seguire. E Teo, grazie veramente di essere venuto, non grazie potevi mancare, anche perché è richiesto, cioè ormai vanno richieste. Ah, vabbè, gentile richiesta. Sì, ma perché ancora non chiami? Che c'hai litigato? No, non litigato con nessuno. Una alla settimana ci vuole un po'. Un po' di tempo. Ci vuole un po'. Quando è cominciato con la radio, Teo? Nel 76 ho festeggiato il quarantennale di attività radiofonica l'estate scorsa. Te lo dico sempre, ma tu hai non inventato la radio, perché c'è stato qualcuno prima di te, no, che hanno fatto anche una via, no? Viale Marconi. Però, insomma, tu sei stata una delle prime star radiofoniche. Sì. Star, fra virgolette, perché non si parla di star, ma un grande professionista che poi ha seguito, giornalista, caporedattore, cioè qual è stato però il tuo percorso? Anni, agli anni d'oro della radio. Quegli anni erano meravigliosi, era come andare alla conquista del West. Tutto era possibile, tutto era aperto, potevamo fare qualsiasi cosa, devo dire che un po'... 76 mi dicevi? 76, sì. 76. Già erano partite le prime radio, io mi ricordo, andavo ancora a scuola. E ricordo che ero felice quando beccavo l'influenza di stare un paio di giorni più a casa per ascoltare la radio 24 ore su 24. Guarda, lo raccontavo ieri alla mia signora, che mi nascondevo la radio sotto il cuscino per sentire un LP intero, mandavano la musica. Era intera, eccetera. Era possibile, era no, non erano tutti edit. Però tu sei stata proprio la prima voce riconoscibile della radio. Tu hai cominciato subito. Ma lo sai che mi hanno copiato? Ma lo sai che c'è stato un periodo in cui andava in onda uno che mi imitava? No. E devo dire che era bravissimo. Vabbè, ma la voce parliamo tua non del è 77, facile, è caratterizzata. La tua voce è particolare. Sì. Un po' velata, questa... curiosa, come sì, si curiosa, dice in gergo, curiosa, non caratterizzata, ma è una voce abbastanza difficile. Eppure c'era uno mio sosia, un imitatore radiofonico che conduceva, che evidentemente aveva ascoltato molto le mie trasmissioni, al punto mi imitava che un giorno, ascoltandolo per caso, beccando una radio, ho detto: ma che è un programma mio registrato vecchio questo? Ma che è? Ah, sì, è vero. Ah, è questo quello che mi copia. Ma non sulla stessa radio, immagino. No, un'altra radio, ma ti assicuro, ha impressionato anche me per quanto sono. Quindi pensa quanto mi aveva studiato. Tu hai cominciato subito con RDS o hai cominciato le piccole radio? No, io ho un passato come tutti quelli che hanno iniziato in quegli anni, fatto di sottoscala, di magazzini. Quello che ti sentivano davanti, esatto, casa tua. C'è un indimenticabile pomeriggio per me, ero nel sottoscala di un negozio di mobili in periferia, dove il proprietario appunto di questo negozio, visto che ai tempi fare una radio non era un grosso investimento, ma si voleva divertire dai ripetitori, insomma, era quello l'investimento. E ho i ricordi ancora di questo pomeriggio da incubo, poi dice uno si forgia, in cui solo, perché ai tempi tu arrivavi in radio, aprivi con le chiavi, intervenivi, c'era un freddo terribile perché nessuno entrava da due giorni, erano andati i nastri registrati, intervenivi sul nastro e andavi avanti. Io avevo come strumenti di riproduzione il microfono e due giradischi a vinile. Tutto partì con una certa tranquillità finché non si ruppe un giradischi e io trascorsi 3 ore di solitudine cambiando il disco mentre parlavo, togliendolo, rimettendo l'altro, andando a appoggiare la puntina, sperando e invocando qualsiasi santità, la mia buona vista, la mia sensibilità. Il santo dei DJ, esatto, non so chi sia. San DJ che mi aiutò. Io trascorsi 3 ore in questa maniera. Ma è bello, però. Però questo hai avuto modo poi di saper spiegare agli altri tutto il lavoro. Il lavoro dell'attore anche. Certo. Non è di sapere solo il tuo, di sapere quello delle luci, della devi fuori, conoscere tutto per sapere poi come farti accompagnare. Ma devi essere curioso, non tutti sono così curiosi, molti si accontentano. Esatto. Io so fare il mio, basta. Non è un caso che poi tu sei cresciuto lì, ma adesso tanto starei con noi. Un ometto. Un saluto a te, Pino, e al grandissimo Teo Bellia. Un doc sarebbe bellissimo. Doc di Ritorno al Futuro. Doc. Oddio, sono passati più di 30 anni. Sì, ma lui c'è la stessa. Più o meno ce la facciamo ancora. Non sei di quelli che possono ancora fare i trentenni. Tu, Acerbo, Chevalier, siete disgraziati. Ce la vendiamo bene. Sì, voi rubate del lavoro. Ai giovani. Lo vogliamo sentire? No, stiamo per andare in pubblicità. Io vorrei godermelo il Ritorno al Futuro. Abbiamo ovviamente un momento tratto e vedremo, sentiremo se la voce ha mantenuto. Non è proprio uguale. Vabbè, c'è la velatura. Quanti anni sono passati dal Ritorno 32, al Futuro? 32. Capito. E già allora mi disse: mi raccomando, Teo, non appoggiarla troppo, resta leggero. Quindi ne avevo 24 ma tu e mezzo. C'è tipo Cesare Barbetti, che era il grande indimenticato di Robert Redford, eccetera. Quella velato carino bello è difficile da trovare, quella è molto naturale, per cui va bene. Allora facciamo così, adesso ci salutiamo per un attimo, lo sapete, e poi torniamo con il grandissimo Teo Bellia, ci ascoltiamo un momento di Donna Futura e continuiamo a fare questa cavalcata attraverso la storia della radio. Un altro film che io mi sentirei di consigliare, non l'hai fatto tu, ma è Love Radio Rock, per chi ama la radio privata. Ama la radio. Quello è un saldo. Sì, ci sta punto anche Radio saldo. Freccia, ci sta. Radio Freccia, sì, cerchiamo di essere anche nazionalisti. Giusto. Che sia così. Allora, tra pochissimo, ricordatevi che Voice Anatomy è appena cominciata. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati, come promesso, signori miei, Voice Anatomy. Vicino a me Teo Bellia. Caro Pino. No, colui che veramente ha inventato il microfono di una radio, cioè nel senso una voce all'interno del microfono di una radio. Tu dai. Tu pensa che emozione che avevi. E c'erano degli studi radiofonici talmente poveri, miseri, che tu ti chiedevi davvero quando uscivi dopo 4 ore ed eri stato lì vivace a raccontare cose straordinarie ed eri stato da solo in una stanzetta senza avere un eco di ritorno, perché niente. C'erano le telefonate, le cose. No, c'era qualcuna, ma la dovevi prendere tu la linea, quindi dovevi rispondere tu, ovviamente. Metti il disco. Esatto, ma soprattutto non dimenticherò mai uno studio in cui credo qualcuno dalla mente perversa aveva messo tutti i specchi davanti, quindi ti guardavi tutto il tempo ed è più o meno fastidioso. Infatti dopo poco c'erano tutti i fogli con i promemoria attaccati sopra proprio a coprire le facce. Un altro studio dove qualche satanasso si era divertito a metterci in difficoltà invece era tappezzato con un feltro a quadratini bianchi e neri. È vero, questo per dopo isolare. Dopo poco la vista cominciava ad avere degli effetti collaterali gravissimi. Tu pensi di stare sei ore solo, ipnotizzato. Era crudeltà mentale. Ricordo ancora la proprietaria di una radio, dove ero in periferia di Roma. Come si chiamava? Ti ricordi? Radio no? M, Radio M 100 Stereo. Ragazzi, ragazzi, un brand importante. Sì, è stato un. È vero, una tu fase, stavi a Radio M. Un'epopea. E sei stato comprato poi. Sono stato. No, non come mi eri calciato? No, esatto. Nel senso, come mi calciato? Tutta la squadra. Ma esatto, già Radio M mi aveva comprato. Mi aveva comprato da Radio M. A parametro zero, però. Beh, certo, ancora eravamo così. E ricordo che a Radio M scendeva, io facevo l'apertura alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino in onda, vuol dire che devi arrivare un po' prima. Certo. E in giornate come queste arrivavi col ghiaccetto su, certo, via Casilina, ai tempi eravamo su via Casilina, e dal piano di sopra, dove abitava, scendeva la signora proprietaria della radio e mi portava il caffè. Ecco, Teo, ti ho portato un caffettino. E tu eri lì con questo mondo di vivacità, di emozioni molto internazionale, eccetera, a Borgata Finocchio col caffè della signora. Bellissimo, però, bella, indimenticabile. No, è vero, adesso mi ricordo assolutamente, siete stati presi, è veramente in blocco, eravate tutti lì, e lì è stato poi è nata la grande suono. Radio Dimensione Suono, che era nata come una radio veramente di nicchia. Ma già, però, avendo preso voi, puntava poi, già in alto. No, era nata di nicchia prima, nel 76. Prima, però, e poi quando arrivò la nuova proprietà e il nuovo gruppo, che sempre lui è stato, e la nuova proprietà, possiamo dirlo il nome, ma certo, Edoardo Montefusco, questo veramente lungo, grande personaggio, una grande storia, sì, e tanti anni di evoluzione radiofonica romana, e portò il nuovo gruppo e impose ovviamente una radio di grandi ascolti, di, certo, grandi numeri, e affidò a me l'ingrato compito di selezionare la squadra di chi c'era, mischiarla. E con non noi. Era un talent, eri un vero, no, direttore era del personale. Vero, era tutto vero, non era facile. No, anche perché ero artistico. Fra i più giovani, ed ero fra i più giovani della squadra. Il giornalista scegliere per già? Tutti. No, ancora no. Il giornalismo arrivò. Ci arriviamo. Per cui a te è stato dato la possibilità, l'onere e l'onore, sì, di scegliere la squadra che poi si è rivelata vincente. Sono segni, sono destini, sono predisposizioni, ma sin da piccolo, dall'adolescenza in poi mi sono trovato a dover gestire gruppi, persone, anche al di là dei miei desideri. C'era proprio un affidamento autonomo. E tuttora ci dirigi, per cui... Sei il dirigente, sei. Ma non di calcio. Complimenti ovviamente arrivano a Iosa, di Martin Luther King, mi è piaciuto molto quello che ho letto, ma mi piace particolarmente il pensiero: alla fine quello che ricorderemo non saranno le parole dei nemici, ma il silenzio degli amici. Bello, questa è una cosa bellissima. Bellissima questa. Sto attenti, questo è un pubblico. Ma vedi la meraviglia. Radio 24, io sto attento a congiuntivi, sinonimi, contrari, perché vengo ripreso. Giustamente bacchettato veramente. Anche perché siamo in un progetto radiofonico che oggi in Italia fa, secondo me, la differenza, no? Sì, è un bellissimo progetto. E quindi chi sceglie Radio 24 la ascolta. È una scelta. Non sì, ce sì. l'ha come tappeto. No, esatto. Viva Dio. No, infatti, senza nulla togliere alle altre radio di flusso, però questa è una. Ma c'è un flusso di comunicazione vera. È intensa, sdoganata su tutto. Abbiamo parlato ovviamente di Ritorno al Futuro, che è stato il tuo sliding doors, se non sbaglio. Insomma, lì il trampolino. Teo Bellia, dopo essere arrivato dalla radio, giornalista, caporedattore, TG e quant'altro, Ritorno al Futuro è stato il tuo trampolino vero. Sì, è stato un momento straordinario. Io, se posso raccontare una aneddoto. Guarda, qui c'è tutto il tempo. Abbiamo i ancora ricordi di nonno Teo. Esatto, mettiamo una sigla. Facciamo una rubrichetta settimanale. Rubrichina. Cosa successe? Io ho fatto il servizio militare, noi siamo della generazione sì, che ancora che lo faceva. Sì, ho fatto il militare. Pompiere. 104esimo, signori. Io, aviere, 144esimo. Gioia del Colle, ho fatto il CAR e guardavamo gli aerei della NATO che decollavano attaccati alle reti, perché eravamo ragazzini. Beh, certo. Noi, ovviamente. E ricordo ancora, perché le coincidenze non esistono, che il giorno del mio congedo, io ovviamente ho avuto la fortuna di fare poi gli 11 mesi di servizio militare a Roma, trovando delle amicizie, non neghiamocelo, ma ce l'avevamo tutti in amicizia e da qualche parte. Io andavo in giro per i turni in divisa, anche tu mi sa che mi hai incontrato in divisa qualche volta. È vero, che è vero. Non avevo il tempo come di Elvis Presley, ti sentivi molto Elvis Presley. Io e lui uguali proprio. Di fare la vera star. Esatto, non avevo il ciuffo. E ricordo che il giorno del mio congedo avevo il congedo in mano, dalla caserma ascoltai la segreteria telefonica, perché ai tempi non c'erano i cellulari. solari, no, ragazzi. No, sembra un'era geologica fa, ma in realtà non è così tanto tempo, non erano neanche, erano 30 anni fa. E ascoltai la segreteria e la segretaria della società di doppiaggio mi lasciò un messaggio: Teo, hai vinto il provino, se ci puoi richiamare. E io avevo fatto il provino di Ritorno al Futuro Michael J. qualche Fox, giorno prima. Chiamai dalla caserma col foglio in mano, cioè non credevo alla verità di tutto questo, pensavo fosse impossibile, cioè tutta che... questa gioia in un giorno, esatto. No? Hai finito il militare e hai vinto fai Ritorno al Futuro, è troppo, e andai poi nei giorni successivi a doppiare Ritorno al Futuro, tutto felice, sperando di incontrare questi grossi calibri del cinema, non li vidi mai. Mai. Tutto in colonna separata, un dolore. Ai tempi adesso non si faceva niente, però in colonna è separata. È vero, alle volte si doppiava tutti insieme, esatto, stando attenti a non accavallarsi troppo, esatto, eccetera. Volevo lavorare con Ferruccio. È vero, Ferruccio, tu era la CD, certo, no? Certo, era la storica CD che poi divenne appunto CD6, mille mutazioni. E non incontrai mai nessuno perché si doppiava a Londra, sai, questo è un grosso prodotto. E tutti questi prodotti importanti noi li ascoltiamo solo con i fonici, i sound engineer di Londra. Quindi ci dovete mandare una cosa, non sapevo. Hai capito? Hai capito? Ho capito, sì. Adesso sentiamocelo, un Teobellia dannata, vai, Ritorno al Futuro. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty. Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein. Calma, Marty, non ho disintegrato niente. Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte. Ma allora dove diavolo sono? La domanda giusta è quando diavolo sono, capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro. Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Con una DeLorean! Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? E inoltre, l'acciaio inossidabile del telaio ha permesso che il flusso... Attento! Eccolo! Tu hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean? È ovvio, dai, che il po' di tempo è passato. Ah, ma sono passati tre, quanti hai detto? Quanti anni? 32. Dai, è uguale, l'hai fatta. Su, ci provo. No, questo, guarda, questi sono pazzi. O danno delle cose a livello filologico perfetto e storico, ma se dalla Cina, caro Pino e caro Teo, vi offrissero una cifra mostruosa per lavorare esclusivamente al doppiaggio di pornazzi orientali, accettereste? Sono pensieri che possono far passare notti insonni. Esatto, perché pure i grandi campioni stanno accettando di andare pure andando a giocare con esatto, in un campionato orribile. Tu però, insomma, noi l'abbiamo fatti, almeno io l'ho raccontato già da 35 anni fa, li ho fatti, e soprattutto quelli americani, ma anche quelli filippini, dove anche io mi sono sentito, insomma, a quel punto. Anche quelli tedeschi, dove tutti gli uomini erano nudi coi calzini, ti ricordi? È vero, quelli tedeschi. Non so, questa usanza misteriosa dei tedeschi. È vero. Non so, il nord Europa c'è questa cosa, perché c'erano piedi. Secondo me sì, è un altro motivo. Per cui l'abbiamo fatti per molto meno, se adesso un cinese ci offrisse la possibilità di andare lassù. A tra pochissimo, Voice Anatomy e Teobellia. Mincavolo, le emozioni spiegate a mio figlio. Bentornati a Mincavolo, il nostro appuntamento con le cose che fanno arrabbiare i più piccoli. Con noi oggi c'è Emanuele di 8 anni. Ciao Emanuele. Ciao. Allora raccontaci, qual è una cosa che ti fa proprio incavolare? A me mi fanno incavolare due cose. La prima è quando qualcuno, che ne so, mi ruba qualcosa. E la seconda è quando io invece perdo qualcosa. Devi sapere che io colleziono delle carte e una volta non ho ritrovato due forti. Una me l'ha ritrovata un mio amico, l'altra invece non si è più trovata. E è una cosa proprio che ci tenevo tantissimo, alcune volte un pochino piango. Se no, poi resto solo arrabbiato con il broncio, niente di tanto strano. Ecco, questo è quello che fa arrabbiare Emanuele. Per lui il consiglio di Sonia Scalco, che insieme a Carlo Carsana è autrice del libro Pensa come Leonardo da Vinci, edito da Editoriale Scienza. Ciao Emanuele, ti potrei consigliare di fare come faceva Leonardo da Vinci nel suo Codex. Visualizzava l'oggetto e lo disegnava. Quindi prova anche tu a prendere carta e penna, a disegnare l'oggetto e a rispondere a quattro domande fondamentali. Prima, l'oggetto in questione, quando, chi l'ha potuto nasconderlo, magari dove avrebbe potuto metterlo, facendo sempre schizzi e disegni. Così facendo ti sarai rilassato e avrei avuto degli schizzi divertenti. Ciao Emanuele. Capite Emanuele, questo è il consiglio per te. Noi invece ci ritroviamo alla prossima arrabbiatura. Un saluto da Federico Taddia. Mincavolo è anche nella sezione C'è qualcuno che sa leggere, in edicola oggi sul Sole 24 Ore. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 15 in questo momento, una manciata di secondi. Teo Bellì è sempre al mio fianco, stiamo percorrendo la sua carriera, che è anche la carriera della storia della nostra radio, in qualche modo, in non la nostra modo, radio, della radio. In Italia, delle radio private, sì, insomma. Sì, l'evoluzione che ha portato poi a questi grandi network, certo, importantissimi. Incredibile. Insomma, adesso è... Ai tempi sembrava inimmaginabile. Inimmaginabile, noi eravamo lì tutti con col santerellino di Radio Lussemburgo, poi avevamo il santino di Radio Monte Carlo, di Radio Capodistria, di Wolfman Jack, quello Wolfman americano, Jack, American Graffiti, ed eravamo lì a dire delle cose invereconde per radio, ma tanto era il modo. Ma chi l'ha inventato quello? Ehi, hey, allora in una giornata così fantastica, e dovevamo essere molto dinamici, molto vivaci e quindi chiaro che questo infatti è Voice Anatomy, qualche proprio tempo fa cambiammo un po' sì, registro, sì. No, non avevamo più bisogno, però di era così. Il radiofonico, che poi molti giocano su quelle cose, ma facendo come chi fa il doppiaggese, no? Certo. E non lo sa fare, certo. È brutto, e tu senti quelli falsi e dico, allora è fantastico questa, quelli che cercano di prendere anche l'intro della musica, no? Ai tempi prima l'intro lo dovevi... era un sogno, esatto, adesso c'hai i secondi che te li segnala, no, al ritroso, se non ce la fai è veramente un... E invece è bello, cioè... Ai tempi tu ti sentivi il disco e prendevi l'intro. E se non l'avevi mai sentito? Abbiamo un pezzo anni 70 senza dire niente a dai. Teo Bellì, vediamo se ancora c'ha l'occhio della tigre su questo. Magari rischi, fa pure brutta figura e non mi chiamerai. Ma il prossimo film. Siamo però... senza rete, ci piace così. Eh sì, come quando ti ho dato adesso, i nostri autori ti hanno dato il pezzo di Martin Luther King. King ti hanno dato 20 secondi prima. Non è che, non è che lo sapessimo a memoria. Esatto. Ma nel frattempo, cioè, Alessandro sta cercando un pezzo con un intro, però mandiamo un altro momento importante della tua vita, perché tu hai doppiato fra i tanti anche. Che, a parte Nicolas Cage, eccetera, che ci sentiremo, il grande Joe Pesci nella serie di Arma Letale. Beh, quella è stata una straordinaria saga dove ancora oggi devo dire grazie all'opportunità di divertirmi così. E hanno visto in me la possibilità di fare un ruolo di carattere estremamente spinto. Che carattere. E ci siamo divertiti. Un altro bel divertimento che per chi fa il mestiere del doppiaggio, chi si occupa di questa comunicazione vocale, no? su tanti piani, è una bella e stimolante sfida quella di dire da parte di molti: ma lo sai che non ti avevo riconosciuto? Quello è il complimento più importante. È la cosa più bella che ti possono dire, perché vuol dire che tu ti abbandoni, ti lasci, ti togli, ti spogli di tutti i tuoi cliché, respiri con lui e ti metti a vivere con lui. E allora sentiamoci questo Joe Pesci in Arma Letale 2. Chi è? Polizia, apra la porta. E chi me lo dice che è la polizia? Dopo che le ho sparato, faccia esaminare il proiettile. Avanti, apra. Ma come, non mi hai chiesto nemmeno di vedere il distintivo? Non lo fare più. Ok, vediamo il distintivo. Ho capito. Uno fa il duro e l'altro fa il tenero, Silenzio. Ok, lei è quello duro, ho capito. Lo conosco a memoria, giochetto. Sei tu Leo Getz? Sì, signore, sono proprio io, Leo Getz. Se è roba che va, Leo ce l'ha, cazzo. È una battuta che uso per rompere il ghiaccio quando mi presento, non è male. Io sono il sergente Marta, che questo è il sergente Riggs. Salve, lieto di conoscervi. Ok, allora com'è che devo chiamare? Sergente Marta e sergente Riggs. Saremo la tua ombra per qualche giorno, Leo. Ok, va bene per me. Ehi, è roba passata giù di moda. Giù le mani. Ai! Ok, io non ne vedevo una da tanto tempo. Credevo non li usaste più quei pezzi da museo. Però... scommetto che il piccolo ha un'automatica. Che mi dici, hai l'automatica? Sì, una peretta, eccola qua. Cazzo. È sicuro che siete sbirri, ragazzi? Abbiamo anche il pezzo anni 70, Alessandro, basta dirmi una cosa, ecco. Beh, allora aspetta, dobbiamo dall'inizio, aspetta un attimo, mi puoi partire così a freddo, Ale? Potevo, ma non fa niente. Allora, no. Allora ti faccio il gesto anni 70. Questa autocelebrazione, alla prima vai a vuoto senza il disco, esatto. Poi all'improvviso, quando meno te l'aspetti, Alessandro partirà col pezzo. Ma come amici, amici di Radio 24, buona domenica da Teo Bellia, ci troviamo anche oggi pomeriggio per una straordinaria cavalcata all'insegna della voce e delle sue straordinarie possibilità. Eh sì, perché sapete che la voce può dare emozioni, può dare sensazioni, può dare divertimento, può dare improvvise emozioni di paura, di eccitazione, insomma sono veramente infinite. Posso decidere di mollare qui dove inizia un primo giro con le tastiere oppure dopo. Prendiamo il primo giro, va. questa è giocare in ma casa. Ma quale, che bellissimo. Ti sei ricordato anche del pezzo che c'era il giro con le tastiere. E adesso guarda che adesso inizia la povera donna Summer, indimenticabile. Ciao Dana. Grande Teo, ti do la mano anche se non si vede. Ma si fida. Bellissimo. No, beh, ragazzi. Sei no. tornato indietro nel tempo. Ma questo no, è un questa è verità, perché l'hai fatto, vedi, giocando. L'hai fatta vera, l'hai fatta bene, ti sei divertito dentro, quella è la storia. Ma se non ci divertiamo, loro come fanno a divertirsi? Insomma, mai massacrato questa cosa. È bellissima, cioè tu hai preso addirittura parlando sopra. Io già stavo tentando di capire se era un pezzo di Donna Summer, era more dei trucco. Stavo ancora cercando di capire, perché poi sono tutte ottave, per cui può partire in ogni attimo. E certo. Ti sei ricordato, anche signori, buttate giù gli sms adesso, spendete, date un euro a ogni telefono. Dai, sono rimasto senza parole. Ma soprattutto non perché non c'è quello che adesso hanno tutti, che è lo schermo che ci dà tutte le tempistiche del pezzo. Esatto, perché adesso ti danno tutte le tempistiche. Certo. Tu hai beccato. Intro. Senti, questa è una cosa per Mauro Meconi, che sarà sicuramente concentrato sulla partita, perché lui fa l'autore dalle 3 alle 4 e mezza, invece non sta c'è. Seguendo il calcio. Non pervenuto. Qui dicono: è la diretta Facebook che vi siete inventati straordinaria. Che fine ha fatto? Aia, momentaccio. Perché c'è stato un momento, però che io devo dire, la radio è evocativa, è come un buon libro, certo. Non serve l'immagine, se no certo. Si chiama televisione. Appunto. Però giustamente uno dice, se te la vuoi vedere e sentire... Ora che gli strumenti ci sono... Te la vedi e la senti, se te la vuoi solo sentire, la senti e basta, è una scelta, anche se uno può anche essere struccato e mal vestito. Sono struccato, oggi è ufficiale, passato al macchiaggio. Dico, signori, prendetevela con Mauro Meconi, nome e cognome, attore conosciutissimo. E... Tu pensa fino a quanto fu traumatico per noi... inevitabilmente di vecchia generazione, prima il passaggio dal vinile al CD, sì, quello è stato scioccante, e già lì per me. Non c'era più il rapporto fisico con quell'oggetto, che aveva un odore, che faceva dei suoni quando lo toccavi. Sta arrivò tornando, però sì, ma non è mai finito, no. Il CD finirà, sì. Non se ne conserverà quasi memoria, perché è stato un supporto freddo. Passare poi alla musica liquida, no? Oggi in realtà le radio sono un computer. Sì, un server con un computer che va lì e pesca tutto quello che c'è. Quindi tu dei dischi non vedi nemmeno mai più la copertina. Non vedi cosa hanno scelto. L'altra stanza c'erano tutti, esatto, gli LP messi, esatto, in ordine alfabetico. E l'artista quando decideva la copertina ci metteva il suo pensiero, le sue emozioni, quello che quel disco voleva dire ed evocare era già visibile graficamente. Non c'è più. E quante copertine come quella dei Velvet Underground di Andy Warhol, la banana, per dire una cosa, quelle di Yes, sì, ogni copertina era un mondo, solo guardare la copertina, l'idea di ogni copertina di Pink Floyd, certo, c'è un mondo, uno certo studio profondo. Ma anche la bocca dei Rolling Stones. Sì, no, dai. C'è scelte grafiche, cose bellissime. Oggi non le apprezzi più. È un peccato. Cazzo, sembriamo nonno Memmo. Esatto. E zia Maria. Esatto. Invece no, cucino, perché sono cose belle. Cucina. Perché quando metti. Io fai sentire l'LP, cioè il disco, il vinile. Io ho fatto con i miei figli proprio questo esempio. Vi faccio sentire adesso The Dark Side of the Moon in CD, in 5.1 e poi sul vinile. Mm-hmm. Qual è il meglio? Il vinile. Perché la profondità. Come noi, i nostri microfoni, i valvolari o i che andavano prima, c'erano prima e ti coglievano la voce, e qui il nostro Alessandro forse ne capisce qualcosa di più, o quelli a transistor che sono un po' più freddi e tagliano sono un po' più selettivi, le, però, le frequenze. E mettono in luce e in evidenza tutti i difetti. Esatto. Tutte le schifezze che facciamo con la bocca sono evidentissime. Le cose belle meno. Vabbè. È così. Per cui perdi anche quella profondità, cioè il disco ti dà quella profondità, quel rumore di fondo che riuscì a prendere l'estensione vocale o l'estensione massima. Ed è incredibile come l'orecchio umano, che si fa ingannare dai campionamenti digitali, esattamente come l'occhio umano si fa ingannare dal cinema, perché il cinema è lo stesso concetto del digitale, no? Sono tante foto una dietro l'altra, è tutto il cinema è digitale per istituzione, no? Perché non racconta il flusso vero. Eppure il nostro orecchio, apparentemente così facile da ingannare, non si fa non fregare. Inganni, è vero. Tra l'analogico e il digitale, prima di fregarlo davvero... È vero, non, ma magari non sa cosa significa addio, però se ne accorge. Però senti che qualcosa ti manca. È così. Quel è respiro così. Vicino al pianoforte di Keith Jarrett, che è una meraviglia in vinile, cioè anche sul CD. Vabbè, bando torniamo al futuro, perché poi tu questo ti racconta. Dopo Joe Pesci c'è stato anche un altro bellissimo film dove tu hai fatto un altro grandissimo attore, Nicolas Cage, Stregata dalla Luna. Io ti porto a lì. maledetto. È vero che era italo siciliano. Finalmente potevo usare il dialetto dei miei genitori. Oh, ecco, cosa che non ti ho chiesto, perché sì, non l'ho letto, non ho voluto leggere. Né di che anno sei? Il 17 gennaio 60. Del 60. Cifra facilissima. Sei un uomo di 57. 57. Siamo uguali. e poi però di origine tu nato a Roma? Di origini siciliane. Io nato a Roma e i miei genitori, devo ringraziarli, non smetterò mai di farlo, mi hanno cresciuto parlando solo in italiano correttissimo. Quello che noi diciamo casa. Da questi microfoni, insegnate l'italiano ai nostri ragazzi. Esatto. A scuola, non solo la grammatica, esatto. L'italiano. A parlare bene questa lingua, perché esatto. Lo dobbiamo e poi tenere i nostri dialetti, esatto. Perché sono lingue vere. Ma anche perché nel dialetto trovi delle autenticità di espressione a cui poi ti puoi appellare, no? Pensarla in dialetto e dirla in italiano fa differenza. Esatto. Molto, no? Di dove? Sicilia dove? Palermo. Proprio. E i miei si divertirono a insegnarmi il dialetto. Come divertissement, non come. Che poi il catanese è la lingua usata da noi doppiatori per il cinema. Mediamente, fai, sì, mediamente perché Palermo è più, esatto, come è la più, differenza. Più stilacchiata. Tu lo sai meglio di chiunque altro. Comunque a Palermo c'è una certa cadenza e un poco questo suono che ti differenzia e tu lo senti quando dici mica è dolce, quelli riconosci che è più palermitano. Esatto. Ecco, anche questo è Voice Anatomy, ma soprattutto anche Nicolas Cage in Stregata dalla Luna con la grandissima Cher, un film bellissimo. Norma Jewison era regista, mi sembra di sì, non vorrei cose. Dire una sciocchezza, ormai l'ho detta, non voglio dire una sciocchezza, ma l'ho ormai detta andata, comunque, ormai è andata. Spero che sia Norma Jewison. Me lo auguro. Allora ascoltiamo un altro Teo Bellia dannata, con la straordinaria Ludovica Modugno. Ludovica, cioè, Modugno, sì, sentiamo. Sembra che deve nevicare. Sai, mia madre se lo sentiva, era sicura che mio padre aveva una donna. Che roba, tette e volgarità a buon mercato. Ma chi sono io per parlare? Che te ne importa? Hai il coraggio di dirmi questo? Mi stai facendo sentire colpevole. Lo sei, Ronnie, come lo sono io. Di che cosa? Solo Dio può puntare il dito, Loretta. Sì, ma di che cosa lo so io? Ma che cosa sai? Ok, tu mi hai raccontato la mia vita, ora io ti racconto la tua. Io sono un lupo. Tu arrivi e svegli il lupo che è in me e questo non ti rende certo un agnello. Tu stai per sposare mio fratello. Perché vuoi svendere la tua vita? Per una donna come te, giocare sul sicuro è la cosa più pericolosa che ci sia, ti rendi conto? Tu l'uomo giusto la prima volta l'hai aspettato tanto tempo. Perché stavolta non l'hai voluto aspettare? Io stavo qui, ma non è mai venuto. E io allora? Sei in ritardo. Abbiamo azzeccato tutto. Norma Jewison, regista, quello di Jesus Christ Superstar, esatto. E tanti altri. Ludovica Modugno l'hai nominata. Che doppia, straordinariamente compagna, cioè, d'avventura. È tuttora grande vociona, bellissima. Fantastica. Ludovica. Spero di averla presto, ma sta sempre in tournée, sta sempre in giro. Correva l'anno, puntini puntini, con la Biondi e Bellia, sei in buona compagnia. 1983, Rai Stereo 2. Il tentativo di Radio Rai di combattere le radio private alla pari. E voi immaginate, per un ragazzino che aveva sentito la parade e cose del genere ed era cresciuto ascoltando Arbore e Boncompagni, certo. Entrare a Via Asiago comunque hai fa impressione, no? È bello però. E a 23 anni dire a mamma e papà trasmetterò dalla Rai e non dalle radio private. Negli infatti anni il percorso 80. Dei calciatori, Cazzarola. Da, proprio dai calciatori, hai fatto proprio da allievi regionali, dalla esatto. Squadra dei paese fino alla prima squadra in Serie A. Tutto. Che bella tutto. Cosa. Ma io ancora ho nel cuore quello che hai fatto prima, ma lo rimando registrato. La rimando a registrazione per quanto mi è piaciuto. Facciamo un programmino agli 70. Ne facciamo un altro all'ultimo blocco che stiamo insieme. Chiamo anche Fabio Celenza nel frattempo, stiamo per andare in pubblicità. Fabio Celenza. È radiofonicamente è difficile raccontarvelo, ma se andate su internet capirete esattamente chi è questo straordinario. Digitate Fabio Celenza, è quello che doppia in una sorta di lingua improbabile. Pugliese, improbabile, i grandi come Mick Jagger, il Dalai Lama, Obama, chiunque, veramente. Noi doppiatori siamo andati veramente in visibilio perché va più a sync di noi, è l'adattamento è perfetto. Bravissimo. Non è radiofonicamente possibile perché il signor Mauro Meconi non fa più la diretta Facebook, per cui non possiamo farlo vedere. Però c'è gente triste. Diciamo. Allora andiamo insomma. In pubblicità. Va benissimo, a tra poco. Voice Anatomy. Bentornati, 15:16 primi e 30 secondi. Teo Bellia sempre a mio fianco per accompagnarci questi ultimi 15 minuti dai, insieme, e abbiamo dato spazio a Fabio, che ha avuto modo di invitarla al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, e tuttora mi urlano il tuo nome. Caro Fabio, quanti anni hai intanto? Sei pugliese, no? Immagino. No. Perché ogni volta che mi vedi mi dici che sono pugliese? No, ti prendo in giro, tu mi correggi. Beh, un po' te lo sei cercato, però. Sì. Dai. Ma sono cercato. Sì, un po' no, sì. Perché chi ovviamente ti conosce tramite Facebook, c'hai cioè veramente centinaia di migliaia, e il successo anche di Colorado, che visto da lì. Beh, sì. Come ti è venuto in mente di andare? Prima hai chiesto quanti anni ho. Sì. Ne ho fatti 30 la settimana scorsa. Auguri, allora, sei capricorno anche tu. Beh, ne ho fatti l'8 gennaio. Oh, un po' meno di me, quindi. Un po' meno, sì, ma 2-3. Ma Robetta. Com'è nata questa follia di andare a Sync e ridoppiare in maniera, devo dire, molto professionale? Perché tutti hanno fatto il ridoppiaggio, il livornese, sì, tutte sì, le cose. Sì. Però era un po', certe volte, gratuito, un po' volgare. Cioè, il tuo è divertente, è veramente bello. Adesso divertitevi a cliccare veramente su Facebook, su YouTube. Su YouTube. Fabio Eccellenza Doppiaggi. Beh, e vi renderete conto che cosa riesce a fare questo ragazzo. Ma che riesco a fare? No, mo sei romano, mo diventi. Ma sì, ho problemi vari, diciamo. Come è cominciata tutta questa? Nasce sostanzialmente dalla noia. Mm-hmm. Poi tu dici. Sento annoiato. Già che faccio? Sembra dolente. Sì, infatti. Perché la voce racconta queste emozioni. Cioè, no? Si chiama appunto. Infatti, mio padre, quando ho saputo che venivo qua, non ha fatto altro che raccomandarmi, Fabio. Però mi raccomando, stai un po' più su col morale, perché la gente non ti conosce, pensa che sei. Invece sono così calmo, triste, noioso, annoiato. Bellissimo, abbiamo chiamato un ospite per chiudere. Hai capisci? Noioso. Chiude in su di solito. Sì, no? Sì, che sì, poi sì, la radio, no? Tu sai perfettamente, ne parlavamo prima con Teo, non permette pause, non permette i neri. Infatti sono a mio agio totalmente. Cioè proprio. Esatto. Sei nel tuo elemento. Sì, la diretta radiofonica è il tuo elemento infatti, naturale. Sì. Ma guarda, per fortuna c'hai pure Teo qui, io posso star zitto, Teo. Bellissimo. Anche lui come sente la pausa entra per cui. Mi date una mano, anzi. Insomma, bisogna dare corpo a quello che hai fatto. Insomma, tu parli con quello che fai, non con te stesso. Insomma, non con te stesso ci parli. Dico, non parli di te, non racconti, non brillantizzi la tua vita, fai parlare gli il altri. Tuo lavoro. Vabbè, comunque, se parli di qualcun altro dovrà parlarmi con mio. Per fare un doppiaggio ci metto un sacco di tempo, quindi. È un lavoro che mi. Cioè, mi sconfigge la noia per un bel po'. C'è qualcuno che dice: domani voglio provare a trasferire la stessa verve da disc jockey sul lavoro, e vai con le tastiere, dice Walter. Ma così bisogna fare, mettete la gioia in quello che fate. Ma qualsiasi cosa qualsiasi cosa si deve fare per se stessi. Ma al santa meglio miseria. Se no queste giornate sentite come l'esaltazione vocale di Fabio Celenzi. Ehi! Oh! Non mi dici dove ciao. Dove sei ciao. Nato? Sono nato vicino Vasto, ad Attessa. Ah, okay. A Tessa. Vicino al mare. Tessa. No, a Tessa tutto attaccato. È tutto attaccato. Ok, scusa. Però quando sono nato io faceva la neve, anche se adesso vivo sul mare. Sì. Da lì è un attimo. C'entra niente. Da lì è un attimo. Sì, perché c'era la neve, fai subito ad arrivare. Esatto, scivoli. Certo. Sì, slittino. Si mangia Pino, tutte le parole del mondo. Ti sei pentito di avermi invitato. Di avermi ma no, lo so perfettamente. Ho avuto sul palco 2 settimane fa. Quando è stato? 3 settimane fa. Però tanto ti avrò anche in un altro modo. No, non hai detto radiofonica, questa cosa è terribile, no? Nel senso che visivamente cercheremo di collaborare per una cosa importante, non possiamo dire niente. Non possiamo dire niente. Però sì, ma intanto abbiamo detto quello che fai. La gente in questo momento, chi sta ascoltando, sono parecchi, decine di migliaia, anche qualche volta 100-200 mila ascoltatori. Vabbè, magari vanno lì, vanno, e chi non ti conosce ti va a cliccare. E sinceramente è un virale straordinario. Certo. Io rido ancora quando Beh, anche perché, no, è pazzesco. Oltre alla tecnica, al sync molto preciso, c'è anche una scrittura piacevole, quindi è divertente da seguire quello. Qualcuno che ci fai. Dice: alcuni film USA, caro Teo, caro Pino, anni 30-40, mi pare siano stati ridoppiati negli anni 70-80. Ma perché? Non ci sono i campi per le voci, la colonna effetti non pare l'originale, e spesso la colonna sonora pare un loop di un tema risuonato su un synth, il tutto mixato dal fio da portiere sotto casa mia. Pietà. Beh, molte operazioni di ridoppiaggio sono state difficili. Ma non volute da noi, però. Beh, no. Volute dagli americani. Volute quasi sempre dagli americani. Loro, sempre. A volte legate banalmente al degrado degli oggetti, dei nastri, dei supporti, che negli anni perdono completamente la loro capacità di brillantezza. E quindi esattamente come se vai a rimettere dentro la cassetta su cui avevi i tuoi dischi anni 70. Quattro, nell'ipotesi che tu abbia ancora un lettore, sentirai che ha perso tanto di quell'ossido che ormai è opaca, no? Esatto. E quindi se devi riuscire col DVD, la collection nuova, eccetera, e quel suono non lo puoi proporre. Tu ce l'hai i vinili a casa, che sei un trentenne? No. Non ho vinili. Neanche papà te li ha conservati? No, c'era mio nonno, c'era un paio. Mio nonno non è bello che ci dica mio nonno. Di mio padre. Mio nonno ce n'ha un paio. Ma che significa? C'era un paio. Un paio. Che c'ha? Però diciamo che mi sono promesso di... Ne parlavo tra l'altro ieri. Mi sono promesso di comprarmi un lettore, no, un giradischi, un vinile, un vinile, uno alla simbolico volta. iniziare. Sì, perché bisogna ascoltare piano Qual piano è la il musica. Cinema che ami? Il cinema che amo? Il cinema dove ci sta comodi seduti. Dico no, il film, il genere di cinema, il genere di film. A parte questo non ti viene in mente nessun altro film, no? A parte questo non ti viene nessun altro film in mente, no? E ma musica? Io, quale musica? Ma io ascolto un po' di tutto. Benissimo. Adesso sono ritornato un po' alle origini. Cioè? Le origini tue? Origini della musica, il ritmo. E qual è? Il bebop, che cos'è l'origine? No, il ritmo in generale. Cioè, ritmo. Vuoi parlare di generi? No, mi piace, parlavi prima di Marcus Miller, mi piace molto Marcus Miller. Ma tu piace, sei un bassista, piace, vero? Tu sei un bassista. Ma sono, sì, sono o sei un chitarra, bassista, no? Un bassista. C'è una certa differenza. Esatto. Mi piace, sì, mi piace il ritmo. Okay. E questo, ovviamente, diciamo, lo trasferisci anche sì. Nelle altre cose. Ovviamente voi parlate di sync, adattamento, termini che... Non che tanto hai... il sync, ma l'adattamento io l'ho capito, anzi forse ancora capisco che vuol dire adattamento. L'adattamento è quello che tu fai quando metti in bocca a quelle persone, quelle parole, fai un adattamento che del labiale. Che però le parole, certo. Ecco sync, qui che fai un adattamento. L'adattamento, perché prima c'è una traduzione del film che andrai a doppiare e poi ci deve essere un ottimo adattamento. Che c'è una musica anni 70 per rimettere la prova? Io voglio che vada a casa con un po' dispiaciuto, Teo Bellia. Perché? Perché ci ha massacrato, perché io sto facendo quello di mestiere. Ma che hai fatto? No, hai fatto una cosa straordinaria, io la rimando in replica pure domenica prossima. C'è stata una standing ovation. No, sì, pazzesca, perché riuscire, no, vabbè, insuperabile secondo me, no, nel senso che hai fatto due, hai fatto un esercizio di stile all'interno dello stesso brano. È stato un caso, ma si potrebbe caso? Riprovare, si potrebbe fare la prova. Ma non lo so, tanto questo ci azzecca la torta. Cerca di farlo sbagliare, luppalo diverso. Ma che cosa state architettando ai miei danni? Che succede? Questo lo mettevo, ragazzi, tanti tanti anni fa, erano i primi anni 70, i miei primi lavori, le feste, i compleanni, terrazze estive, case distrutte di povere mamme. Ed è tutto vero quello che ti racconto. Venivano i carabinieri, Dio. Mettevamo la musica, rompevamo le tende per mettere le luci. Ah, mio Boogeyman, io ci ho vinto Mister Torre del Sole 75-76 a Tarquinia Lido. E il Sunshine Band. Oddio mio. Ma faccio le gare di ballo perché i miei amici ballerini bellissimo dell'epoca ballavano in Rai, nei primi giovani, le nuove generazioni. Andavo con loro l'inverno, lo facevano certo. I piroietti e la gente si fermava in discoteca. Ancora John Travolta doveva nascere nel 74-75, poi nel 77 la febbre il sabato sera tutto. Se tu facevi qualcosa a goatto, insomma, te prendevano in giro. E allora facevo una piroetta, una cosa, e vincevo le gare di balle. Ma io nel Viterbese ero numero uno. Ho vinto tutte, guarda, a Vetralla, a Tolfa, a Civitavecchia, a Tolfa. La turnetta di Tolfa hai fatto, io paesi. Peccato che non c'erano i telefoni con la... Ecco, non c'erano, la fotocamera. Non c'era la testimonianza tutto di tutto testa. Quello che abbiamo fatto. Però non è che ho detto Mister Los Angeles, no, no, e lei no. 70, no. Ho detto Mister Torre del Sole, a Marina Velca. È onesto, cioè, è onesto. Vabbè, però, è vera, ci sta. Ci crediamo che l'abbia fatto. Però rimorchiamo, grazie a questo devo dire, passato un'infanzia straordinaria facendo finta di ballare. Bene. Va bene, senti, allora, caro Fabio, io... Vattene. Ma Fabio. No, ma pure lui, Daniel. Ciao Pino. Un po' fuori dal coro, ma tante cose sono arrivate. Vorrei porre una domanda un po' più tecnica a Teo Bellia. Sì, potresti indicare esercizi per riscaldare velocemente la voce, magari prima di un provino di una performance lavorativa con la voce? Bravo, bravo, bravo. Allora, un minuto possiamo farlo. Respiriamo di diaframma, sapete cos'è, non è quello che serve a evitare le gravidanze, e il muscolo che non vi fa venire la tartaruga, ma che divide la cavità polmonare da quella addominale e che spinge con uno stantuffo. Usatelo, rilassatevi, fate di voi un'immagine diversa da quella solita. Non immaginatevi come un albero frondoso, ma come una pera piccola in alto e larga in basso, e cominciate a fare dei piccoli vocalizzi a bocca chiusa. Fate una sorta di piccola ginnastica, una sorta di preagonistica, vi scaldate un po', poi provate a farla a bocca aperta e poi soprattutto cercate di essere rilassati e lucidi quando arrivate alle GIO, alla performance, a quello che sia. Non vi contraete tutti perché la voce non esce più. Esatto. State attenti ai muscoli delle spalle, state attenti a come ponete la voce e al fatto di immaginarla. Ne volete sapere di più? Ecco. Sono 15 euro l'ora. Ma no, ma i tutorial sono importantissimi, sì. Niente li facciamo. Bravo, bravo, sei riuscito in un minuto comunque a dare una indicazione. Sì, vabbè, gli ha dato un antidolorifico, niente male. Una piccola niente terapia. Male. Bellissimo. Sbaglierò, ma provando a fare un po' di Voice Anatomy, mi sembra che la voce di Bellia somigli a quella di Fiorello. È possibile? Non lo so, può darsi anche. Non lo so. Tu pensa che Fiorello mi disse tanti anni fa, quando era ospite in una mia trasmissione radiofonica, certo, che ero stato un qualche modo uno dei suoi miti giovanili, perché nella radiolina dove lavorava lui, ma ci hai accompagnato a tutti, arrivavano le cassette dei programmi è che vero, facevo io da Roma. Esatto. Lui stava in una radiolina siciliana dove arrivavano questi programmi vivaci, si quelli vendeva, che facevano le cose sì. che dicevo prima, e quindi quando mi ha conosciuto era più contento lui di quanto fossi io. Sante Gargano era uno che vendeva. Sante fortissimo. Era forte. L'ho visto lui. Poco tempo fa. È vero. Non so se mi deve dare ancora qualcosa. Vabbè, non comunque credo, no, no, scherzo. Anzi, ho dato la possibilità di vendere un programma in tutta Italia. Esatto, bellissimo. Esatto. E allora, carissimo, sì, caro Fabio Celenza, noi avremo modo di rivederci, anche la gente capirà dove, come e perché. Ecco, sì, l'ho conosciuto anch'io, l'avevo ascoltato, ma esatto. Non l'avevo conosciuto. Teo, grazie, grazie, sei stato te. Straordinario. Grazie Pino, grazie a tutti voi. Tieni quella lì come un blob, la mandiamo ogni due secondi. Alessia Navarro mi dice di salutare, lo sto salutando in tutti quanti ciao. In maniera molto educata. Grazie Fabio, grazie, grazie a davvero. Voi. Tu grazie stai facendo voi. Una tournée qualcosa, no? Una tournée? No, a Roma. Scusa se ti ho fatto sta domanda. Va benissimo, tra pochissimo. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Voice Anatomy. È solo un addio, credimi. Io non ci penso mai. Vedo che hai pianto. Tu lo sapevi, ma da quando? Bella l'estate, vai via da me. Notte d'incanto. È bello vedere le luci laggiù. Io sono stanco. Non voglio parlare, parla tu. Bella l'estate, vai via da me. È solo un addio. Credimi o no, penso mai. Era ed è ancora Pino Mango che ci ha salutati un paio d'anni fa, ma noi vogliamo ricordarlo così, poi con una voce così evocativa. Ecco, è arrivato, l'avete chiesto, l'avete osannato, avete urlato e lui è qui. Massimo Corvo, benvenuto. Grazie, io provo... bentrovati a tutti. Sembra che io faccia parte delle voci bianche oggi, ma non è così. Del 54, Pino Mango, scusate, del 54. Sì, sembra, come dice Mauro Meconi, che saluto insieme a Alessia Navarro, gli autori di questa trasmissione, dall'altra parte del vetro Alessandro e Rachele, la nostra capo redattrice, tutto il gruppo di Milano che permette la messa in onda e quant'altro. Sì, è stato osannato, il tuo arrivo è stato richiesto, io ho calcolato di che squadra sei, a che ora gioca la tua squadra e ti ho convocato la domenica giusta. Ti ringrazio per questo, purtroppo è una debolezza che ci tramandiamo da generazioni. Purtroppo. Io avevo un nonno di testaccio e come si fa? Non ho mai avuto neanche per un attimo l'idea, anche se ce ne sarebbero di motivi, no? Per cambiare fede. Ma assolutamente, però andare dall'altra parte del ma c'è chi nasce con la camicia, diciamo, dalle parti di Torino, esatto, e chi nasce con la corazza dalle parti di Roma. Perché, no? Però ti muovi bene uguale, no? Io siamo cuginetti. Esatto. Io sto da Sestaccio, tu stai di là, dall'altra parte del Tevere, ma esatto, insomma ci vediamo, no? Sì, ci accettiamo, lavoriamo insieme. Ma sì, ma dai. Abbiamo la stessa sorte con le barriere, no? Esatto. Solo a Roma. Io lo urlo da sempre che si vive in una società multilaziale, per cui bisogna vivere insieme. Massimo Corvo è un attore, prima di tutto, come diciamo sempre da questi microfoni, ed è un grandissimo doppiatore. Lui, Sylvester Stallone, Lawrence Fishburne, Bruce Willis, Jean Reno, Vin Diesel, qualsiasi cosa, meno che Meryl Streep, credo che tu l'abbia fatti tutti questi qui. Insomma. Sì, sì, no, ma dicevamo prima, anche ho iniziato a doppiare quelli belli tosti, pesanti, già a 26-27 anni. Qualcuno mi domanda, dice, ma tu quando eri piccolo c'avevi questa voce qua? Io no, veramente la voce si forma, no? Come... Sì, è uno strumento, lo urliamo sempre da questi microfoni. Assolutamente sì. Ma tu il primo vagito com'è stato? Mamma si è spaventata. È lì che hanno chiamato l'esorcista. Non lo so solo che pesavo 4,5 kg e c'era una signora vicina di letto di mamma che diceva: ma che bello sto bambino, quanto dorme, quanto mangia. E io già da lì ho cominciato a tribolare, perché non ho più dormito e non ho più mangiato. No, però poi ti sei ripreso un attimo. Adesso sto recuperando tutto quello che non ho mangiato. Esatto, però la radio è evocativa, come sì, diciamo prima, è una voce, non si sa. La bellezza è questa, proprio perché io non vedo telecamere, no. Perché posso dire una piccola cosa rapidissima? Qui si può dire tutto. Che senso ha fare una radio con la telecamera, con le persone che stanno lì, che sembra che stanno sedute su qualcosa di diverso da una sedia, che cosa serve? Cioè la bellezza, la magia della radio è proprio quella di sognare, di immaginare e non vedere. È come il libro, lo no? Vedi, e quello che vedi lo vedi tu nella tua fantasia, no? Assolutamente sì. E allora perché adesso anche la radio dobbiamo mettere una televisione? Comincerei subito con un Sylvester Stallone da Nata, con un monologo bellissimo, e poi parliamo del tuo rapporto, tu Stallone, tu Ferruccio Amendola. Ascoltiamolo. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così, e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Comunque io ti vorrò sempre bene, Robert. Non può essere altrimenti. Tu sei mio figlio, sei il mio sangue. Sei la cosa migliore che ho al mondo. Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. Beh, no. Io questo lo metterei in tutti gli spogliatoi. No, in tutti no, soprattutto no, tanto per rispondere al nostro amico, sì, che è deluso, eccetera. Però questo è un momento di grande motivazione, di grande interpretazione, ma la gente l'ha capito perfettamente. Il brivido. Ecco. Eredità pesantissima. L'eredità di Stallone, che ha una voce molto più simile alla tua che a quella del grande Ferruccio, no? Sì. Per chi fa il doppio audio se ne renderà conto, come Rocky 1 era Gigi Proietti, come no, che insomma vi assomigliate, sì, anche come tipo di vocalità. Come è nato questo rapporto? Perché è nato in momenti non sospetti. Ferruccio Amendola era in vita e stava doppiando non stava film. Bene, non stava bene, non stava bene, non riusciva, e parliamo del film in questione, era Driven nel 2000, credo. Ferruccio non stava bene e propose alla società di doppiaggio di provare me, perché avevamo lavorato e collaborato insieme gli ultimi 4 anni con Ferruccio, era nata una bella amicizia, una bella collaborazione da Jackie Brown, abbiamo insomma una serie di cose belle. E però non erano d'accordo e vollero fare i provini, quindi provinarono me e altri due doppiatori. Alla fine non so se c'è stata una serie di interventi celesti, però per Ferruccio in qualche modo, esatto, e in qualche modo hanno scelto, credo lo stesso Stallone abbia scelto proprio questa voce. E il problema è che è stata un'eredità pesante, perché è come se da domani Pino Insegno parla con la voce di Jan Sante, esatto. No, per dirne, con tutto il rispetto, cioè, ma che è successo? Ecco, esatto. Quindi io che sono cresciuto con Ferruccio, perché ogni tanto qualcuno dice: ma tu eri quello di Adriana? Dico: io avevo 7 anni, 8 anni, non mi ricordo, ero quello di mamma, esatto, quel periodo ancora. Quindi, facevo mamma, no, dico, non è possibile. E quindi vabbè, doppiai questa cosa con la morte nel cuore, perché sapevo che Ferruccio non stava bene, non stava già bene, sì. Andai però al cinema, dico, vediamo che cosa ho combinato, mi metto là, ultimo spettacolo a Giulio Cesare, qui si sente la prima battuta, che lui dice: pronto, 2 o 3 battute, si sente dal fondo della sala: ma che cazzo di voce gli hanno dato? E io sono sprofondato sotto la moquette delle... ma è chiaro, no, normale. Beh, adesso ormai, però, in un caso del genere, come per la morte di Pino Locchi, no? Sì, Sean Connery, io pure non riesco, faccio fatica a sentire un'altra voce, sì. Però purtroppo non si può andare contro questo. No, è come Cicoli su John Wayne. Però poi uno ragionando, ormai sono più di 20 film che tu doppi Stallone, sì, e la gente ti porta in braccio volentieri e ti ascolta volentieri, anche perché veramente se fate il solito doppio audio, che adesso avete la possibilità infatti di farlo. Saluto tutto il gruppo di Sly Italian che mi sostengono, ma non dar retta alle critiche, ma le critiche ci saranno sempre, qualunque cosa farai. Assolutamente, no, ma quello ormai sei tu, ma sei tu veramente nel profondo, tridimensionalmente tu, Silvestre Stallone, ma non solo lui, insomma, poi sta voce come te, chi ce l'ha? Ce l'hai te. E tu sei anche più intonato, diciamolo, Stallone. Beh, non è, ma è un mito, è un sì, mito. Assoluto. Se ma no, quello di prima, poi dopo ti riscrive, no, e ti dice. No. Ma no, diciamolo, anche Schwarzenegger con Alessandro Rossi, sì, acquista un pizzichino, sì, perché sì, si sì, sente che ancora che è austriaco quando recita in americano. Sì, sì. Hasta la vista, baby. È perché lui recita così. Però la meraviglia, l'unicità, certo, è creata proprio da quello, dal difetto, certo, dall'imperfezione, no? No, ma Stallone soprattutto in Creed, che meritava, secondo me, l'Oscar come miglior attore non protagonista. Lo so, però, sì. Un po' butulino, però. Beh, però è stato bravissimo. È stato straordinario, perché straordinario. Si è tolto la schiavitù del ring, sì, e ha fatto il vecchio, anche esagerata questa sua voglia di vecchiare. No? Sì, sì, è vero. Perché è vero, finalmente non era quello che spacca tutto, che fa... e quindi ha lavorato divinamente. Ma quello bene, per cui da lì in poi sei andato avanti e non l'hai più abbandonato. Senti, tu hai prestato la voce a una trentina di star assolute. Quali tra questi credi sia stato il tuo miglior lavoro sull'attore? Tanti, infatti, è difficile. Guarda, quando è così. No, a me mi è rimasto nel cuore, mi rimarrà sempre Leon. Jean Reno. Sì, abbiamo. Perché tra l'altro non l'avrete ricordato tante volte, però Tonino Accolla è stato uno dei maestri. Io ho avuto la fortuna di avere tanti bravissimi e grandissimi maestri. Renato Izzo. Da Renato Izzo a Ferruccio Amendola, a tanti, non, adesso non stiamo qui a tediare tutti. Però ecco, questa è stata una grande fortuna. Il fatto di lavorare in amicizia con Tonino, che dirigeva questo film, e di creare poi queste cose bellissime che noi ricreiamo, ma soltanto in italiano, perché è già qualcosa che è stato fatto, è stata un'emozione bella. Una perché, bella magia. Guarda, sì, ce l'ascoltiamo, ce l'abbiamo un contributo tratto proprio da Leon, dove tu presti la voce al grandissimo Jean Reno. Ascoltiamolo. Come ti chiami? Leon. Che nome cazzuto. Hai qualcuno da cui andare, qualche parente, da qualche parte? Vado a prendere dell'altro latte. Esattamente, che lavoro fai per vivere? Le pulizie. Vuoi dire che sei un sicario? Sì. Forte. Brontolone, che bello. Che meraviglia, sì. Bello, bello. Allora, noi vi salutiamo per pochissimo, come sempre, e torniamo sempre con Massimo Corvo e questa lunga avventura nel suo mondo artistico. A tra poco. Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Ha il record del mondo! Carozzo e c'è la stoccata, la conferma la stoccata. Daniele Carozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13:30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Voice Anatomy. A parte il tuo curriculum, tu hai lavorato con Alessandro Benvenuti, hai lavorato nelle serie televisive come Il Capitano, hai fatto Butta la Luna, hai interpretato anche un pre Don Eugenio, hai recitato la parte di Quinto Vitella nella serie TV Cugino e Cugino, la parte del giudice Goffredo Pulvirenti della terza sesta di Squadra Antimafia. Insomma, ancora mi prendono a parolacce per quella cosa, sì, perché ormai la gente confonde la realtà con la finzione. Tu eri infame. Siamo Pulvirenti, ti ha ammazzato coso. No, ma infatti è così, succede questo, diventi non più voce volto ma corpo in tutto e per tutto. Però hai recitato tantissimo, sei pentito di aver passato più tempo davanti al leggio che sul set oppure no? No, forse tanti anni fa sì, perché quando andai a prendere il nastro d'argento da Pippo Baudo io lamentai proprio questo, dico io mi piacerebbe anche lavorare come attore. Diciamo, ti auguro di non lavorare più come doppiatore, insomma, disse una cosa, una sorta di iattura. Che io dico, no, poi dopo, nel tempo, con questa carriera meravigliosa, perché non è che mi lodo da solo, è proprio tutte le grandi soddisfazioni che mi ha dato questo mestiere, questa parte del lavoro dell'attore. Non mi fa rimpiangere tanto l'essere mancato come attore sul set. Sì, sì, sì. La tua carriera parla da sola. È strano dirla a un doppiatore come te che parla da sola. No, sì, però ecco, io sono rimasto proprio affascinato perché il doppiaggio l'ho iniziato intorno ai 20 anni. Qual è stato il tuo primo turno? Il primo turno è stato da mi sembra che era il Robottino o qualcosa del genere. C'era Massimo Lopez che era protagonista di non so quale. Che anche Massimo è un grandissimo personaggio. Sì, conoscete, ma è un grande doppiatore. Alla cooperativa Cortese, dove c'era un certo Barberito, che non so se conosci. No, non me lo ricordo. Insomma, cominciai a fare questo. Io ancora mi ricordo, e già lì mi fecero fare un vecchio. Sei nato vecchio. Sì, sono nato vecchio. Io, vabbè. E mi ricordo che era questo personaggetto di questi cartoni giapponesi che diceva: questo libro si chiama Diario d'Eco ed è stato tramandato da generazioni e generazioni per millenni. Questa fu la mia prima battuta. A voce da vecchio. Vabbè, adesso però a distanza di... No, vabbè, mo ci stanno da vecchio, ma sei un po' più grande. Tanti complimenti, quelli un po' più intensi. Vabbè, Massimo Corvo era la voce della bestia nel film d'animazione Walt Disney, sì, l'abbiamo detto. Massimo era una bestia molto, molto affascinante. Devo chiedere ad una ragazza se vuole uscire con me. Se le inviassi un audiomessaggio in cui faccio fare a Vin Diesel e a Massimo per mio conto, dite che accetterà. Non è male doppiare delle persone reali. No, devo dire che mi arrivano a me ogni tanto delle richieste. Dice, domani è il compleanno della mia ragazza, ma io se do retta... Capito, ma gli fai gli auguri tu, non gli fa più lui. Ma vabbè, ho capito. Allora, io entro domani dal ciabattino, dico, senta, guardi, domani è il compleanno del zia. Gli potrebbe rifare i tacchi, ma questo mi dirà le scarpe appresso, no? Ma è un lavoro, è un mestiere, insomma. Uno lo fa volentieri, ma magari... Così, un'applicazione, ci vorrebbe un'applicazione fra le tante applicazioni che sono sul telefono, applicazione audio messaggio di auguri da parte di Stallone a da parte di Russell Crowe. Ah, insomma, sì, oppure andare a doppiare in diretta sotto casa quello che chiede da uscire, tipo le serenate, esatto, volta. Doppiata è come se non si fanno doppiata da Baglioni sotto casa della nostra amata. Esatto. Certo, non è male, non è male, no, non sarebbe male. C'è da doppiare dei professori a scuola pure, ci vorrebbe un pronto intervento doppiaggio, è un 119, non so, un numero che ancora non c'è. Serve un pronto intervento, devo fare l'amore con la mia fidanzata, non ho un godimento piacevole. Beh, però se c'hai questi problemi, figlio mio, so, ci stanno farmacie, fatti una domanda, insomma, no, no. Parla meno, non parlare. Sta zitto, se no se chiedi a doppiare qualcun altro. Scrivi. Boy's Anatomy non possiamo invitare Rocco Siffredi, ovviamente, no. Perché Body Anatomy, esatto. Un'altra no. Cosa, ma lì parliamo di misure, non parliamo di intensità. Amico mio, senti, esiste un doppiatore o un attore ai quale ti sei ispirato in tutti questi anni? Cioè, tu vieni, sei come tradizione, credo, parte della prima generazione del doppiaggio, come idea, perché tu credo che saresti stato amato dai Cigoli, dai... Quello che dicevo prima, io ho avuto questa fortuna di crescere vicino a dei grandissimi, primo fra tutti Peppino Rinaldi. No. Perché lavorava nella stessa, io lavoravo nella stessa cooperativa di doppiaggio che era quella della famiglia Izzo, e Peppino, me lo ricordo, se me lo ricorderò sempre, lui doveva doppiare Paul Newman nel Colore dei soldi, sì. E io doppiavo per la prima volta Forrest Whitaker, il negretto di Good Morning Vietnam, esatto, faceva Amos, faceva sì. quel finto matto, sì. Che poi gli ruba un sacco di soldi. E Peppino arrivò un'ora prima, si mise seduto con grande professionalità, alla faccia di chi diceva che non capiva quello che leggeva, sì. Con grande professionalità, i grandi rosiconi della storia, e si mise lì. Studiò tutta la parte e poi disse: Renato, sono pronto, incidiamo. Io ho pianto per 10 minuti, per la commozione, per la verità. Credo sia stato il più grande doppiatore. Peppino era una musica. E, sì. E poi uno che andava da Peter Sellers, da Jack Lemmon, certo. A Marlon Brando, a Paul Newman, con quella semplicità. Sì, sì, sì, assolutamente, non è unico. Se ti fermano che vai troppo forte sull'autostrada, secondo me, tu te dovresti fermare e dici: chiudi gli occhi. No, metto il vetro oscurante e parli. Voglio dire, se ti rompono le palle. Ce l'ascoltiamo un Vin Diesel dannata di un Fast and Furious? Vai. Devo ammettere che hai le palle, però. Me l'hanno detto. Sei fortunato che ho sbagliato il tiro. Non direi che hai sbagliato. Davvero? Toglimi una curiosità. Hai voglia di morire, per caso? Non è esatto. Io voglio solo correre. Potresti perdere l'auto. Facciamolo. È il tuo funerale. Ricordi correre o morire? Siamo a Londra, bambini miei. Siete pronti? Via! Pure lui lo accompagni da sempre. Vive la sua vita un quarto di miglio al giorno lui, quindi è unico pure lui, no? Ma l'ho conosciuto... Facciamo anche questa domanda, giustamente sei conosciuto, sì, il tuo corpo. Porta di Roma, perché c'era la lancio di... Roma! Sì, stava là, stava a comprare la maglietta. No. Non stava stando, stava a comprare un par di garzoncini. No, stava lanciando Fast and Furious. Ancora... Ai Porte di Roma? Sì, sì. Vabbè. Sì, perché no, ci sta. E quindi... mi ha chiesto se gli dicevo qualche parola in italiano, allora io ho detto: bella ragazza, ciao, come stai, come che, E lui? Allora lui, che stava agitatissimo per questo lancio di questo film, a tutti diceva: ciao bella ragazza. Che poi loro in italiano non si possono, sì, sentire, perché in un'altra lingua uno perde quel timbro magari caratteristico che io ha. Io stavo lì con le figlie, no, anche a loro: bella ragazza, papà mi ha detto, no, guarda, no, dice a tutti, no, esatto, qui. È una frase idiomatica, no? Non è che dice così, ma no, questo è incredibile, perché perdono veramente. Quando senti Sting che canta in italiano, non è più Sting. Però anche lui è geniale, sì, no. Produce i film, insomma. Lui aveva rinunciato all'inizio, ti ricordi? Sì. Prima con il grande successo Fast and Furious, invece poi si è lasciato andare, dice: no, grazie, non mi interessa più. Poi è tornato, insomma, è uno dei più grandi incassi, a parte anche l'ultimo. In quest'ultimo abbiamo fatto, spero di poter dire questa cosa, di non essere linciato. Ah, già, vero, che ancora deve uscire. Ah, l'ultimo, abbiamo... nel senso che deve uscire. Ancora. Abbiamo fatto un trailer e allora c'è un'attrice bellissima che io adoro, che è Charlize Theron. Ah. Ma comunque non è che stiamo facendo fuga di notizie qua, perché no, basta andare su un qualunque... Che noi firmiamo dei contratti di privacy impossibili. Sì, non si può parlare con nessuno, cioè, sì. È difficile anche ritirare la posta a casa, perché se parli poi col portiere riconosce la voce, c'è l'impronta del dito quando si va a doppiare. È diventato molto faticoso. Questo io... è Fast and Furious 8, che cos'è? Sì, è 8. 8, sì. Niente, fino a che gli leveranno le macchine. Vabbè, d'altronde sono i grandi casi a parte allora, l'ultima. Finirà la benzina, il petrolio, spazio elettrico, non si può vedere. Esatto. No, ma poi la sfortuna che quel grandissimo attore ha perso la vita, poi in maniera rocambolesca, Paul davvero. Paul Walker sulla macchina di un suo amico, la Lamborghini a 300 all'ora, insomma, e non guidava neanche lui. Bellissimo e anche bravo attore. Sì, perché... sì, no, no, quello è stato pazzesco. Infatti, il finale di Fast and Furious è dedicato totalmente a lui. Anche sì, quella canzone, anche bella e commovente. Me la trovi quella canzone bellissima del finale di Fast and Furious, lo dico ad Alessandro. A voce alta, eccola. Mai chiedere più di 3 secondi ad Alessandro una cosa. And I'll tell you all about it when I see you again. Ecco, su questa canzone qui la tua voce. Che saluti Paul Walker. Bah. Io sono rimasto veramente senza parole. In questo caso, proprio senza parole. Eh sì, no, queste sono quelle cose, sono quelle strane storie che ti racconta la vita, che sembra quasi incredibili se le metti dentro un film, invece la vita raccoglie anche queste realtà. Un altro grande attore che doppi da sempre, a parte una volta te l'ho rubato io, ma è Benicio del Toro, ma per un film leggero, una commedia, non ho rubato, sì, una parola grossa. Ma ovviamente. Questo, diciamo, devo dire che anche il mio amico e collega Francesco Pannofino lo doppiava benissimo, sì. Solo che Francesco ultimamente è preso dal cinema, dal teatro, dalla televisione, dal teatro. È una cosa che si merita, sì, in pieno, perché è un vulcano lui, quindi gli possiamo rubare Denzel Washington se sta, sì, fuori, dai, aspettiamo, sì, aspettiamo che sta, va in tournée, un po' tornaio, rirubo. Sì, ma sì, perché insomma Benicio del Toro è un altro che uno pensa, ma chissà, quell'attore che è underground, che prospettive, no, che cose che c'ha, si droga, beve, no, fa. È un uomo di una correttezza, di una pulizia, dorme, va a dormire presto, non beve, non si droga, non... gli piace mangiare ogni tanto perché ingrassa, c'è, ma poi una faccia assurda, no? Bellissima, da sicario, come è stato nell'ultimo film che ho fatto. Eppure mi hanno detto tutti che è un grande professionista. Ma se devi essere forse così, dalla dire alla nostra autrice Alessia Navarro che alterna i propri piaceri estetici fra Keanu Reeves e Benicio del Toro, dovrebbe decidere, perché non si può andare da un estremo all'altro così. Beh, io preferirei andare su verso Benicio, dai. Beh, è ecco, più maschio, no? Ecco, detto poi da sta voce per cui voi potete tranquillamente fidare, insomma. Non entriamo troppo nel discorso. No, però insomma Benicio c'ha il suo perché, c'ha l'occhiaia gagliarda. A noi se ci abbiamo occhiaia dice: ma che ha fatto? Stai, sì, male, c'è influenza. Sì. Benicio del Toro dice: ma che bella, hai finito di fare l'amore da poco. Cioè, questa è la differenza tra noi, certo, e Benicio del Toro. Ma alla fine, per Corvo, che significa questo cucchiaio? Esiste o no? Grande Massimo. Che è sto cucchiaio? Cucchiaio nel doppiaggio? O il cucchiaio, il cucchiaio del capitano? Del re di Roma. Tu ti rivolgi a Tarquinio il Superbo, dicevi? No, no. Tarquinio Prisco. Ma lascia bene. Romolo Remo. No, ma dai, su, è una bandiera, è una cosa meravigliosa. Che... Sono stato sul set con lui mentre girava quest'ultima pubblicità del presidente degli Stati Uniti, per questa nota casa pubblicità, eccetera. Devo dire che c'ha sempre grande ironia, grande presenza e grande intelligenza. C'ha i tempi comici, oltretutto. No, ma poi ho trovato in anziani, questa sarebbe la trasmissione, viene dopo De Capuano, Pardo, eccetera. Ma sì, c'è dei tempi pazzeschi. Ha fregato tutti perché lo prendevano in giro per le sue difficoltà di esprimersi, eccetera, e l'ha fregati perché è autoironico, esatto, e quindi si autoprende in giro e l'ha fregati. L'ha fregati adesso perché sei anni, vecchio, non ce la fa più, ma dicono, basta, fai. Esatto. Sta fregati un'altra volta. Lasciatelo stare. Non lo volete osannare, però lasciatelo tranquillo, abbiate rispetto. No, bisogna avere rispetto, e te lo dice uno che è dell'altra squadra, lui lo sa, mi conosce, eccetera. Perché finché si gioca goliardicamente al bar, tutto si può dire. Sì. Ma quando si parla davanti a un microfono, bisogna essere onesti intellettualmente e riconoscere certe cose. Ma torniamo, rimbalziamo. Ma manca pochissimo, che è 20 secondi. Posso riguadagnarli dopo se esco prima adesso?

Luca faceva Nio, insomma, eravamo consapevoli che stava nascendo qualcosa di nuovo. Eh sì, ma ha cambiato le regole del cinema dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista della storia, perché sì, da lì in poi, cioè, i fratelli, che adesso sono diventati fratello e sorella, perché uno ha cambiato sesso, i fratelli Wachowski. Hanno fatto, dopo devo dire che hanno fatto dei film abbastanza dimenticabili, non sono riusciti a replicare nessun tipo di questo percorso di madre, un po' come per Luc Besson, Il quinto elemento, no? Che è un film che tu non hai fatto pure. No, io l'ho fatto. Lo so, sì. Bruce Willis, però, abbiamo anche quello, eh. Sì, sì, però insomma quello pure è un film che io ho visto e rivisto tante volte. Non è stato incensato più di tanto, non meritava qualcosa in più anche. C'era lei che è meravigliosa, devo dire, che è meglio di Keanu Reeves, per me è molto meglio di Benicio del Toro. Beh sì. Lei è anche stata la sua donna, no? La grande. Come si chiama? Come si chiama l'attrice protagonista del Quinto Elemento? La modella meravigliosa, dai, ditemelo. Jovic, ma gioca con la Fiorentina. Jugovic. Gioca con la Lazio, questa è Milla Jovic. Vai. Va bene, quella. Senti, però abbiamo anche un momento di Matrix, è che è il prequel di quello che hai letto adesso, se non sbaglio, o è quello che viene dopo, non lo so, però ascoltiamoci direttamente da Matrix, il primo ovviamente, Lawrence Fishburne e Massimo Corvo. Vai. Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. E in questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Certo, bisogna avere una laurea in, cioè, ma che stanno in scienze quantistiche. Dice, no, ma a me non mi piace, perché non capisco quello che dici. Non era facile, era bello visivamente, ma non era facile. Messaggi ovviamente si sovrappongono l'uno all'altro. Con Corvo in studio è d'obbligo una pillola rossa o una pillola blu? Beh, molto spesso io voglio rimanere, voglio andare nel paese delle meraviglie. Molto spesso la pillola dovrebbe essere rossa, sì. Rossa, sì. Però, sai, i tempi. Ma non è per generalizzare. La parola di questa se deve cambiare, se capita il doppiaggio. Per essere retorici, però insomma, purtroppo le pillole azzurre te le tirano gli altri addosso, insomma, no? Tu vai lì pieno di volontà con tutte queste pillolette rosse, però all'ultimo te danno i cazzotti per svegliarti. Te le tirano quelle azzurre, capito? Però non bisogna cedere. Allora, pillola rossa tutta la vita. Prima il cucchiaio era riferito a quello di Matrix, ci spiegano. Questo è Massimo Corvo, è anche la voce di Jafar in Aladdin. Jafar, sì. Ce l'avamo scordati. Sì, sì. Il cattivo. Sì, Jafar. Sì, sì, sì. E mio nauseabondo amico. Beh, bella la bestia, Aladdin, insomma. Sono film che rimarranno per sempre. E allora è bello. Legatissimo anche a Pietro Gamba di Legno, che non doppio da pochi anni, però l'ho doppiato per più di 20 anni. Pietro Gamba di Legno. Faticosissimo, perché sempre. È sempre incazzato. Sempre a 2000. Sì, pronto. Vuole comprare un'auto a Spoonerville. È tutta una cosa che non si. Dovrebbe farla Cruciani qui. Esatto. Lui dovrebbe doppiare Gamba di Legno. Esatto. Questo è un bel messaggio. Spero che sia bello, ma è difficile. E ammetto, lo leggo. Unicità aurea, vostro esserci? L'elogio costante, vero, leale, diretto ad ogni persona incontrata che appartiene nell'ambiente lavorativo. Grazie per la vostra trasmissione, Lucia. Ma se dice grazie vuol dire che questo messaggio era... Non lo so, non mi si chiama come mamma mia, non so se sì. Magari dal cielo ha scritto una cosa così carina. Magari scrive anche con mia mamma, mamma romana, stanno vicini, ci stanno ascoltando. Un abbraccio grande. Esatto, riconosceranno le voci da... Sì, dice sì. Questo è mio figlio, questo è Massimo, questo lo riconosco, l'altro è Pinuccio. Sì, sì. Sì, staranno, sono sicuramente lì, non apriamo quest'altra cosa meravigliosa. E comunque volevo dire che insomma non siamo ai livelli del sogno americano, ma se uno vuole può riuscire, ecco, io questo ci tenevo a dirlo. Io non ho avuto mai i santi corsie preferenziali o conoscenze particolari, se non per guadagno, insomma, per non Marco, eh. No, guadagno. Se no, perché me le sono guadagnate tutte le questioni, tutte le cose. Si può fare. Diamoli sti messaggi. Si può insistere. Non è necessario essere ricchi. Si può fare qualche altro lavoro nel frattempo per pagarsi magari le spese. Diffidate da alcune scuole di doppiaggio perché sono soltanto molto spesso. Perché se non sei un attore, esatto, soldi. Se non sei un attore è inutile lottare, bisogna cominciare dalla base. Lo dico sempre, sì. Faccio l'esempio del chirurgo, fa il chirurgo, ha fatto medicina, bene, non basta la mano ferma che non trema. No? Talento sicuramente talento ci vuole. Ecco. Però la base recitativa, impostazione della voce, e col canto cammina benissimo, la dizione sì è importante, ma insomma non è quello, il momento dice sto facendo una scuola di dizione, non è basta dire colonna o disposto o sogno, sì, per essere già catapultati, bisogna studiare. Ecco, questi sono messaggi importanti per dare anche forza a chi, come noi, non ha cercato scorciatoie di nessun tipo, talent di nessun tipo, ma soltanto la voglia, scontandosi anche con delle realtà dure. Non è che Massimo ha detto, ah, bella voce, vieni, prego. Sì, no. Voglio presentare le previsioni del tempo, esatto, così divento famoso, esatto, e posso fare poi il doppiatore come talent. Esatto. E posso chiedere più soldi. Che è una cosa, perché gli altri non sono talent. No. Quelli sono talenti, gli altri non sono talenti. Certo. Beh, altri complimenti, eccetera. No, per carità. Insomma, questa era una domanda che volevo farti, quello che uno si sente di dire a un giovane che comincia, è questo, credere fortemente nel sogno, credere, sì, nella possibilità di... Tu non hai nessuna parente, no? Mamma Lucia non era una doppiatrice, no. Papà? No, io nonna mi portava da piccolissimo sui set e facevo delle cose, ho fatto Vix Vaporub, facevo il bambino, ho fatto la peregina, Fellini 8 e mezzo con mio fratello. Ma l'hai fatto come attore? Sì, ma erano bambini che correvano, andavano, certo, facevano. Vabbè. Io mi ricordo ancora il profumo di questa signora, profumo di questa donna meravigliosa che faceva mia mamma, e mi metteva il Vix Vaporub sul petto, per un bambino moribondo, la sera, e la mattina saltavo in braccio a questa donna perché ero guarito, perché il Vix Vaporub guariva. Va bene, adesso non vogliamo fare pubblicità, sono come la Coca-Cola. Anni, esatto. Ancora mi ricordo questa donna, e quindi insomma, voglio dire. L'odore, e non era mamma, insomma, no, era non una mamma raccomandato, poverella. Lei pure lo faceva per passione, lo faceva così per ingannare. Ma non devi spiegarlo, si sente e la tua storia ti racconta. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due. Ogni giorno dalle 8.20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Voice Anatomy. Ride delle cicatrici. Chi non ha mai provato una ferita. Ma piano. Quale luce spunta lassù da quella finestra? Quella finestra è l'Oriente. E Giulietta è il sole. Sorgi, o bell'astro, e spegni la invidiosa luna che già langue pallida di dolore. Perché tu, sua ancella, sei molto più vaga di lei. Non esser più sua ancella, già che essa ha invidia di te. La sua assisa di vestale non è che pallida e verde, e non la indossano che i matti. Gettala. È la mia signora, oh, è l'amor mio. Oh, se lo sapesse che è l'amor mio, ella parla eppure non preferisce accento. Come